in primo piano. Buongiorno a tutti e buona mattinata. Vediamo i titoli dei giornali di stamattina. Direi che le questioni principali sono di nuovo la vicenda legata alla missione dei militari italiani in Afghanistan, le questioni legate al reperimento delle risorse per il Sud. Si tratta di due temi che in qualche modo alimentano forti tensioni nel governo e all'interno della maggioranza, ma ci sono anche da tenere sott'occhio il decreto legge anticrisi che oggi riceverà il voto definitivo del primo ramo del Parlamento, della Camera, e che poi sarà pronto per passare all'esame del Senato. Sul fronte estero direi che la notizia del giorno è senz'altro il vertice tra Stati Uniti e Cina, che è in corso, che è iniziato ieri e proseguirà oggi a Washington. E poi devo dire tante curiosità sui giornali di oggi, da Bill Gates che dice di voler chiudere o di aver chiuso il suo profilo su Facebook, che troviamo sul Corriere della Sera e su altri giornali, alla notizia molto curiosa sul fatto che i ragazzini praticamente non usino più penna e stilografica o matita per scrivere, ma lo facciano solo con i cellulari, con i computer, e insomma tante altre cosine. Partirei dalla questione dei fondi per il Sud. Come dicevo, è una questione che in qualche modo intreccia un piano di carattere strettamente economico, cioè finanziare lo sviluppo e la crescita nel Mezzogiorno d'Italia, ma contemporaneamente diciamo intreccia anche una questione di tipo politico, perché all'interno della maggioranza si è creata diciamo una sorta di frattura tra quello che ormai viene da tutti definito il partito del Sud, diciamo guidato dal sottosegretario Gianfranco Miciche e dal governatore della Sicilia Raffaele Lombardo. Vediamo i titoli. A questo tema dedica la propria apertura del Sole 24 Ore: i primi 7 miliardi per il Sud, il piano del governo per accelerare lo sblocco dei fondi per la Sicilia e per la Puglia. Poi leggiamo all'interno l'articolo di Giorgio Santilli: subito fatti per il Sud, chiede Gianfranco Miciche. Subito fatti per il Sud, garantisce da qualche giorno Silvio Berlusconi. I fatti per però non è facile farli in questo scorcio di stagione. La via stretta che porta subito un passo avanti per il nuovo piano Berlusconi passa certamente per i 17 miliardi del fondo FAS, cioè il fondo per le aree sottoutilizzato. Lo ha confermato il Premier. La prima mossa è quella di accelerare i piani di Sicilia e Puglia, che valgono rispettivamente 4 e 3 miliardi. Si dovrebbe poi finire l'istruttoria e venerdì queste risorse potrebbero essere portate al CIPE. Però qual è il problema? Il problema è che la cassa del FAS, cioè i fondi che sono a disposizione del FAS, scrive ancora Santilli, che ammontava a inizio anno a circa 1,4 miliardi per il 2009, per il 2009 e 6,5 per il 2010, è stata di fatto prosciugata, oltre che dalle coperture varie legislative, anche dalle emergenze del governo, che ha considerato prioritaria l'assegnazione dei fondi per gli ammortizzatori sociali e per la ricostruzione dell'Abruzzo. A questo tema il Sole 24 Ore dedica anche uno dei tre commenti interni, molto molto interessante, che vi leggo. Quanto costerà il Partito del Sud? Il problema del Fondo per il Mezzogiorno è quello delle élite che devono promuovere un dinamico processo di sviluppo economico e civile. Miciche e Lombardo, Bassolino e Loiero e Cuffaro, sono loro le élite. A leggere le cronache di questi giorni, quella dei ribelli del Mezzogiorno sembra più una storia di soldi, non necessariamente una storiaccia, perché con i quattrini si possono certamente fare tante cose buone, a cominciare dallo sviluppo e dunque dalla dignità delle persone. Ma i soldi dati e soprattutto chiesti a pioggia, magari per coprire impresentabili buchi nei bilanci locali, non producono né sviluppo né economico né sociale. Il problema del meridione, oggi come negli anni 70, resta questo: la qualità scarsa dell'élite. Un partito del mezzogiorno che si faccia risucchiare in quello che Nord e Sud definiva il velleitarismo verboso dei politicanti non serve a nessuno. nessuno. Di certo non serve ai meridionali, anche perché con il federalismo fiscale presto tutta la questione, tutta questa storia sarà buona solo per raccontarla ai nipoti. Tutti i giornali naturalmente dedicano ampio spazio alle questioni legate ai fondi del Sud e ai mal di pancia, diciamo così, nella maggioranza. Subito i fatti o faremo il partito del Sud rilancia a Miciché, quindi è finito il tempo delle deleghe in bianche, basta con l'asse Tremonti-Lega Nord, bisogna sbloccare i fondi FAS. Questa ancora ieri la richiesta Miciché. Anche su Repubblica un'analisi dei soldi che sono effettivamente a disposizione, e diciamo mi sembra che anche qui la conclusione non è molto diversa da quella alla quale è arrivato il Sole 24 Ore. Quindi tanti soldi sulla carta, ma in concreto ancora non si capisce quante risorse siano disponibili. Il Corriere della Sera su questo argomento, il titolo è Sud, sì di Lombardo al Premier, ma Miciché frena, prima i fatti, prima vediamo insomma che cosa faccia il governo. Però segnala anche un interessante episodio che è avvenuto ieri pomeriggio, quando votando insieme al PD e approfittando di qualche assenza di troppo nella fila del PDL, diciamo i meridionalisti del PDL hanno fatto approvare un ordine del giorno che suona come una sfida a Berlusconi. Il testo sul quale l'esecutivo aveva espresso parere negativo impegna il governo a individuare Palermo come sede del forum permanente sullo sviluppo dell'area del Mediterraneo, mentre il Premier aveva proposto nei giorni scorsi di candidare Milano. L'ordine del giorno è passato con 216 sì e 210 no e 6 astenuti. Una distrazione in aula hanno tagliato corto dal PDL, ma il voto bipartisan contro il governo, raccontano dalla sede del partito, avrebbe irritato e non poco Berlusconi. Sempre sul Corriere della Sera troviamo anche una bella immagine infografica che ricapitola un pochino le posizioni in campo, e cioè chi sono i protagonisti di questo ipotetico partito del Sud. Quindi abbiamo già detto Raffaele Lombardo, Agazio Loiero che è governatore della Calabria, Raffaele Fitto e però anche Antonio Bassolino, che ipotizza insomma un movimento culturale che possa andare oltre il partito democratico. Su questo tema del Sud anche il Foglio, con un taglio decisamente più politico. La notizia è: la Lega boccia il partito del Sud. Il vice ministro leghista Roberto Castelli: basta col meridionalismo piagnone. Anche su Libero un tema diciamo affine. Il titolo di apertura di Libero è rubato oltre un miliardo, evasione record ad Agrigento, mentre in furia la battaglia sul nuovo partito del Sud, scoperto un buco fiscale enorme nel cuore della Sicilia. E poi un bell'articolo di Gianluigi Paragone che commenta questa notizia. Vorrei ritornare un attimo, se riesco a prenderlo, sì, al Corriere della Sera, che al tema del Sud dedica anche l'editoriale di Giuseppe De Rita. È interessante perché De Rita in qualche modo diciamo cerca di unire in questo intervento due aspetti, che sono le polemiche sulle scarse risorse destinate al Sud, ma anche quelle relative alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E De Rita dice: c'è un pericolo nell'abbinare questi due aspetti e problemi, cioè il pericolo di veder esasperati i riferimenti di radicale distinzione etnica e culturale, il pericolo di una contrapposizione che tende ad accentuarsi per le tonalità di linguaggio di coloro che ne parlano, sia in termini di lamento che di voluto disinteresse, e il pericolo soprattutto che la polemica pro e contro il Sud rappresenti alla fine il giudizio e una condanna per l'Unità d'Italia, che l'anno prossimo festeggia, anzi nel 2011 festeggerà il 150esimo anniversario. Archiviamo la questione Sud, che comunque immagino terrà banco sui giornali abbondantemente anche nei prossimi giorni, e passiamo all'altro tema forte della giornata, che è il tema dell'Afghanistan. La stampa dedica di fatto l'apertura a questo tema. Afghanistan, la Lega frena, è il titolo. In occhiello il ministro Frattini contro Calderoli, siamo là anche per lui. Poi Carroccio precisa, non c'è alcun contrasto. Allo studio un disimpegno dalle missioni italiane in Libano e in Kosovo. Quindi insomma questa riflessione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni di pace internazionale o presunte tali ha in qualche modo aperto un dibattito all'interno della maggioranza. C'è un bel articolo di fondo di Lucia Annunziata dedicato diciamo a qual è l'anima della Lega, se esiste, così scrive Annunziata, della Lega in politica estera. Proviamo a leggere. Il problema di Bossi è l'America, è il titolo. Un quesito interessante con cui il partito di Bossi sembra in questi giorni determinato a misurarsi, proponendo una sorta di riapertura delle discussioni sulle missioni in Italia, italiane all'estero. Ma può davvero la Lega permettersi di intraprendere questa strada o rischia una cantonata clamorosa? Guardando alla storia di questo partito è molto alta la possibilità che proprio la politica estera si riveli il primo tallone di Achille della Lega. Leggermente diversa, direi, rispetto alla stampa, l'impostazione di Repubblica sul tema Afghanistan, che tende invece con il suo titolo Afghanistan lite nel governo, tende ad enfatizzare in qualche modo i contrasti tra la maggioranza e la Lega, diciamo così, all'interno del governo. Frattini alla Lega, siamo lì anche per voi, il PDL sì alla missione. Poi un retroscena, il Cavaliere, non posso far irritare gli USA. Palazzo Chigi, l'allarme rosso è scattato di primo mattino alla lettura dei giornali. Ieri i giornali riportavano un'intervista con la quale Calderoli, proprio a Repubblica, con la quale Calderoli in qualche modo rilanciava il disappunto della Lega e la posizione della Lega sulle questioni missioni all'estero. Quando si è capito che per coprire politicamente l'uscita di Bossi, la Lega si stava spingendo troppo oltre. E poi ancora, fino a mettere in dubbio nell'intervista di Calderoli a Repubblica tutte le missioni all'estero dell'Italia. Così il premier da Arcole si è messo subito in contatto con il ministro degli esteri in partenza per Bruxelles. Con Bossi ci parlo io, ha annunciato Berlusconi a Frattini, ma va dato immediatamente un segnale agli americani di Obama. Agli americani e a Obama. Anche il Corriere della Sera naturalmente dedica ampio spazio a questo argomento. Frattini rassicura gli americani, resteremo. L'Italia vuole essere sempre un attore protagonista per la stabilizzazione dell'Afghanistan. Questa una dichiarazione fatta ieri da Frattini a una cena con Holbrooke a Bruxelles. Holbrooke è l'altro rappresentante per l'Afghanistan e per il Pakistan degli Stati Uniti, in una cena ieri a Bruxelles. E poi insomma un piano USA arriverebbe 100 giorni dopo il voto che si svolgerà in Afghanistan. Anche il manifesto sullo stesso tema, prigionieri di guerra, con una bella foto dei soldati italiani, un commento, l'analisi di Tommaso di Don Francesco, leggiamo la parte centrale, le prese di posizioni interne alla destra più autoctona meritano una riflessione, perché nessuno, né a parole né con iniziative di mobilitazione dice di no a questo in questo momento alla guerra in Afghanistan, fatte eccezioni per, diciamo, la sinistra anticapitalista. Quindi è curioso, sostiene il manifesto, che sia proprio invece un partito di governo a sostenere o a mettere in dubbio, insomma, la partecipazione dell'Italia alle missioni di pace. Riprendiamo, eravamo rimasti al manifesto e alla sua apertura sulla questione Afghanistan. Vorrei segnalare anche un articolo, anzi a dire il vero è l'apertura della Padania, che effettivamente solleva un problema del quale si è parlato parecchio in questi giorni. Scusate, il titolo di apertura è invasione Vucumpra, solo la Lega dice no. Che cosa succede? Succede che la Padania individua, insomma, due linee due approcci diversi alla presenza dei Vucumpra sulle spiagge, e quindi la Romagna in qualche modo si arrende e, come abbiamo letto nei giorni scorsi, insomma, in qualche modo, insomma, accetta la presenza di venditori ambulanti abusivi sulle spiagge, mentre il Veneto e la Liguria adotterebbe una linea, insomma, di maggior rigore. Quindi l'assessore al commercio di Rimini, Biagini, che dice: facciamo il possibile ma è una battaglia persa. E in Liguria e in Veneto invece i comuni di centrodestra vanno avanti a colpi di arresti e di massicci sequestri di beni generalmente, insomma, contraffatti. Passerei a questo punto molto velocemente alla notizia dell'approvazione prevista per la tarda mattinata di oggi del decreto legge anticrisi. Troviamo la notizia in prima pagina: la Camera vara sul Sole 24 Ore, scusate, la Camera vara la manovra, rinviate le tasse in Abruzzo, gli stanziamenti anticrisi sono 11,5 miliardi fino al 2011. Vi ricordo che questo è il provvedimento che contiene, tra l'altro, le misure sullo scudo fiscale, l'allungamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, insomma, e tante altre misure di cui abbiamo abbondantemente parlato nei giorni scorsi. A questo punto forse possiamo passare alle notizie, la notizia dall'estero. Dicevamo che certamente la notizia più importante sui giornali di oggi, senz'altro lo sarà anche su quelli di domani, è il vertice tra USA e Cina in corso a Washington. A questo tema dedica l'apertura il Corriere della Sera. Obama lancia l'asse con la Cina, vertice sull'economia, offerto un patto strategico per il ventunesimo secolo. È nato il G2, scrive Ennio Caretto a pagina 2 del Corriere. Il dialogo strategico ed economico tra l'America e la Cina, la superpotenza di oggi e quella di domani, un forum annuale, ha dichiarato il presidente Obama aprendo i due giorni di lavoro, inizia una nuova era di sostanziosa cooperazione, non di confronto, nei nostri rapporti che plasmerà il ventunesimo secolo. Non ci illudiamo di essere d'accordo su tutto, ha proseguito il presidente americano, ma stiamo registrando solidi progressi sui più importanti problemi. Obama si è rifatto alla storica svolta del suo predecessore, il repubblicano Richard Nixon, che nel 72 pose fine all'ostracismo della Cina con la diplomazia del ping pong. Lanciando la diplomazia del basketball, della pallacanestro, il presidente ha citato Yao Ming, la star cinese del campionato americano di basket, secondo cui non importa se sei un giocatore esperto o un novellino, hai bisogno comunque di tempo per adattarti al gioco di squadra. Ma perché è così importante Il confronto tra Stati Uniti e Cina, ovviamente perché sono le due più maggiori potenze economiche e non solo del mondo. Tra l'altro sul Corriere troviamo anche una bella infografica che ci racconta un po' di dati su questi due paesi: 307 milioni di abitanti gli Stati Uniti, 1 miliardo e 338 la Cina, una disoccupazione che negli Stati Uniti è ora oggi al 7% ed è solo negli Stati Uniti è solo al 4% Cina, però ovviamente un PIL pro capite che negli Stati Uniti è a ben 46 mila dollari e invece in Cina è addirittura sotto i 3 mila. Dicevo, ma perché è così importante? Ce lo racconta Massimo Gaggi sempre in prima pagina sul Corriere della Sera. Con gli americani che provano a il filo rosso dei debiti è il titolo. Con gli americani che provano a risparmiare, stabilità finanziaria e tenuta del dollaro e controllo dell'inflazione dipendono dalla disponibilità degli altri paesi a sottoscrivere titoli USA titoli basati sulla valuta USA, quindi dollaro. 200 in una sola settimana, quella iniziata ieri, gli Stati Uniti chiederanno a risparmiatori e governo del mondo di sottoscrivere buoni del tesoro USA per oltre 200 miliardi di dollari. Un'enormità: prima dell'esplosione della crisi, in un intero anno, il 2007, erano stati emessi bond federali per 350 miliardi. Basterebbe questo dato a spiegare l'enfasi con la quale il presidente Obama ha presentato il nuovo round di discussioni strategiche USA e Cina, iniziato ieri a Washington. Naturalmente anche Repubblica con Federico Rampini dedica attenzione agli scenari che la cooperazione tra Stati Uniti e Cina può aprire. Anche qui, diciamo, tante indicazioni anche di tipo statistico: che cosa esportano gli USA in Cina, che cosa esporta la Cina negli Stati Uniti. Per restare in tema Stati Uniti, anche se non più in tema Cina, mi sembra molto interessante anche l'editoriale di Alberto Alesina sul Sole 24 Ore di oggi, dedicato a un problema enorme per gli Stati Uniti e per il presidente Obama, che è la riforma sanitaria. Proviamo a leggere qualche riga. Il presidente Obama si è impegnato a riformare in fretta il sistema sanitario americano, ma in un modo che rischia di diventare un fallimento ancora più grave di quello di Hillary Clinton nel 94, quando l'allora moglie del neoeletto presidente predispose, dopo mesi di lavoro, una riforma radicale che poi fallì clamorosamente al Congresso. Ora Obama, diciamo, sta rischiando veramente grosso sul fronte della riforma sanitaria. Abbiamo concluso, io vi auguro una buona giornata, ridò la linea a Irene.